e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. In questi giorni in tanti stanno ricominciando con la routine, stiamo toccando in questi giorni diversi aspetti della ripresa della quotidianità. Dopo le vacanze abbiamo parlato di scuola, università, adesso Nicoletta mi pare affitti, il caso. Affitti, abbiamo parlato ieri, anche. Esattamente. Stanze in affitto. Tempo di parlare adesso invece di lavoro. Tocca. L'attualità come sempre ci dà una mano, visto che ci siamo soffermate in questi giorni sulla platea dei giovani. Tocca ricordare ancora una volta quanto sia impietoso lo scenario sulla disoccupazione giovanile. Allora, a giugno avevamo avuto il massimo storico, il 44,2%, proprio pochi minuti fa. È arrivata invece la statistica che si riferisce al mese di luglio. Abbiamo un segnale di netto miglioramento, 40,5% è il tasso di disoccupazione fra i 15-24 anni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi. Chissà quanto incide la componente stagionale su questa statistica. Anche il quadro generale sembra in miglioramento. La disoccupazione a luglio complessiva per il nostro paese è scesa al 12%. Alla luce delle statistiche si è colta l'occasione in questi giorni da parte di molti analisti per fare il punto della situazione sul Jobs Act, la riforma dei contratti di lavoro. La facciamo anche noi allora, con un focus particolare su quella forma contrattuale sulla quale erano poste e sono poste ancora tantissime aspettative, il contratto a tutele crescenti. Ne parliamo anche perché il tempo corre e le imprese hanno tempo solo fino a dicembre per stabilizzare con le nuove regole i contratti in corso, beneficiando di una serie di incentivi fiscali e contributivi. Allora, a che punto siamo? 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione. Siete in procinto di firmare un nuovo contratto di lavoro? Settembre vi porterà questa buona notizia. Quali dubbi però vi attanagliano? Insomma, Nicoletta mia, una materia che dire che mette stress addosso è dire poco. Infatti, Deborah, tu me la servi su un piatto d'argento, perché con il lavoro, lo sappiamo bene, lo stress va a braccetto. Soprattutto in questi giorni lo stress diventa un compagno molto presente e scomodo, tanto che si parla, come ogni anno, puntualissimi, da stress da rientro. Ritorno al lavoro, ma anche alla vita di tutti i giorni riaccende i pensieri. A soffrirne, secondo i dati più recenti, è una persona su 10, l'hai letto anche tu, no? Deborah, sì. Ne parlavamo proprio. In questi giorni. Secondo me però sono molti di più, per questo oggi consigli anti-stress cuciti su misura. E c'è da chiederci se ci stressa il rientro al lavoro, ci hanno stressato le vacanze, ma lo scopriremo strada facendo. Insomma, chi è senza stress scagli la prima pietra, tutti gli altri sono invitati a chiamare il nostro numero verde. Cosa vi stressa di più? Il lavoro, il traffico, il mutuo, la vita da pendolare, gli amici, le relazioni affettive, i figli che adesso saranno pure anche loro stressati, soprattutto quelli che si stanno preparando ad affrontare gli esami di riparazione delle materie, sì, che sono proprio in questi giorni. Parliamone per trovare non solo spiegazioni, quelle già un po' le conosciamo, lo intuiamo, ma soprattutto consigli per non farci mettere KO. Subito il buongiorno e il ben rientrato dalle sue vacanze all'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, esperto di temi del lavoro per il Sole 24 Ore. Avvocato, buongiorno. Ha ripreso buongiorno. Anche lei? Pieno ritmo? Purtroppo sì. Come si sente? Vi ascolto dopo, poi ve lo dico dopo. Se si ritrova in tutti quei sintomi che Nicoletta più tardi ci elencherà naturalmente con il suo ospite. Avvocato, allora, il Jobs Act ha 6 mesi di vita. In questi giorni molti giornali hanno versato fiumi di inchiostro in analisi per fare un bilancio su questa riforma molto importante che ha visto la luce il 7 marzo, se non mi ricordo male, no? I bilanci si sprecano, funziona, non funziona, i dati non sempre precisi dal Ministero del Lavoro, le polemiche sull'articolo 18 cancellato o meno, insomma la materia è ricca. Ma secondo lei è giusto fare un bilancio così presto su questa riforma così importante? No, secondo me no. Io trovo davvero buffa, per non dire altro, questa isteria collettiva che c'è ogni volta sui dati. Poi tra l'altro è aumentata questa isteria dal fatto che vengono dati da più fonti e sono dati diversi. Cioè, se avete notato, ogni mese escono quelli del Ministero del Lavoro che ci comunica, fotografa le cessazioni e le attivazioni dei rapporti di lavoro, quindi un dato proprio amministrativo. Poi c'è il dato dell'Istat, che è una cosa completamente diversa e fa, diciamo, un'analisi campionaria. Poi ogni tanto abbiamo i dati dell'INPS, quindi c'è innanzitutto una confusione, diciamo, di parte pubblica, perché bisogna mettersi d'accordo. Anche il Sole 24 Ore ha scritto più volte nei mesi scorsi che sarebbe forse necessario un coordinamento fra questi grandi perché fotografano lo stesso fenomeno da angoli diversi e uno alla fine non ci capisce nulla. E quindi c'è tutti hanno ragione, sembra un po' come quando dopo le elezioni vediamo le tribune politiche e tutti hanno migliorato, no? E poi c'è un errore di metodo enorme, non si può giudicare una riforma vedendo il dato mensile, questa è una riforma per certi versi epocale e dovremmo dare tempo, dovremmo aspettare almeno l'anno prossimo per capire che impatto ha avuto. Avvocato Falasca, questo però non ci impedisce stamattina di fare una valutazione del dato sul mese di luglio, che però, siccome ci pare molto incoraggiante, direi di valorizzarlo al meglio. La disoccupazione giovanile scende al 40,5%, quella complessiva al 12,5%. Abbiamo qui un effetto della componente stagionale, che ne so, molti stabilimenti balneari che fanno assunzioni, molti bar per affrontare la stagione estiva, o c'è dell'altro che noi non vediamo? C'è in realtà un effetto del nuovo contratto a tutele crescenti di cui a luglio molte aziende hanno approfittato? Ma ecco, su questo io ho la sensazione che non è possibile trovare il rapporto causa-effetto, credo che sia più un fatto, diciamo, contingente, per vedere un rapporto causa-effetto tra una riforma che, premetto, io ho un giudizio ultra positivo, però diciamo per dire che questa riforma ha stimolato questi fenomeni ci vogliono dati continui di mesi, diciamo di trimestri e trimestri, forse anche semestri e semestri. Certo. Quindi per ora diciamo è la famosa rondine, vediamo se farà primavera, dai. Allora, intanto magari qualcuno o qualche azienda o qualche lavoratore proprio in questi giorni starà cercando di capire se è il caso di firmare un contratto che l'azienda propone, magari sarà proprio un contratto da firmare secondo le nuove modalità, il contratto a tutele crescenti. Secondo lei, avvocato Falasca, girando anche questa domanda ai nostri ascoltatori che invitiamo a comporre l'800240024, quali sono le domande che ancora ci si fa su come funziona questo contratto per capire se cogliamo stamattina anche le aspettative, i desiderata degli ascoltatori? Beh, allora, le domande sono tante, io proprio lo sto sperimentando sulla mia pelle, perché per la prima volta le aziende come primo contratto che guardano c'è l'indeterminato, quindi i lavoratori si chiedono che cosa mi succederà con il nuovo articolo 18, cioè cosa rischio, se è vero che ho meno tutele e quant'altro, e le aziende chiedono quanto conviene assumere con il nuovo contratto e poi quando lo scoprono assumono con il nuovo contratto, perché il dato, ecco, che prima parliamo di dati, sono crollate le collaborazioni coordinate, sono crollati i contratti cosiddetti precari, quindi diciamo oggi, anche l'apprendistato si fa ricorso molto meno rispetto al passato. Esatto, questo è un fenomeno diverso perché è stato fagocitato dagli sgravi contributivi, però oggi tutti guardano all'indeterminato, sia le aziende che i lavoratori, quindi io credo che anche i nostri ascoltatori dovrebbero un pochino chiederci qualcosa, perché in effetti le novità sono tante, cioè quanto costa di meno a un'azienda assumere, che cosa mi succede con le tutele crescenti se vengo licenziato. Poi c'è un'altra domanda che capita spesso: io ho già un lavoro, voglio cambiare lavoro, che cosa mi succede? Esco dal vecchio articolo 18 ed entro diciamo nelle tutele crescenti? Certo, perché magari quell'assunzione è stata fatta, che ne so, tipo a novembre di un anno fa ed era secondo i crismi del contratto a tempo indeterminato classico. Magari questa nuova assunzione avviene adesso e l'azienda invece deve applicare questo nuovo contratto che, come direbbe l'ex ministro del lavoro Elsa Fornero, è la forma prevalente di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Intanto Gaetano ci scrive che quello che stressa di più è l'Agenzia delle Entrate, Nicoletta, questa mattina non ha torto, non abbiamo chiamato all'appello, sentiremo poi il tuo ospite. Tu peraltro, per parlare di stress da rientro, chi hai invitato? Ma io ho invitato il professor Giampaolo Perna, che gli ascoltatori di Cuore Denari conoscono, ma che è direttore scientifico della Casa di Cura San Benedetto d'Albese con Cassano, ma soprattutto ha un profilo molto interessante perché è professore all'Università di Maastricht in neuroscienze e quindi ci spiegherà perché il ritorno al lavoro genera molto stress, non solamente sicuramente per chi il lavoro ce l'ha, che per chi non ce l'ha, ma anche per chi ce l'ha ha paura di perderlo o teme che certo. siano i propri figli a non trovarlo, e quindi ci sono anche altri meccanismi che gli scienziati stanno studiando, ad esempio vacanze che terminano troppo a ridosso della ripresa lavorativa sembrerebbe che non aiutino il cervello a riprendere un po' il ritmo. Ci vorrebbero secondo te dei giorni di recupero tra la vacanza e la ripresa del lavoro? Sì, terminare un po' le vacanze, un rientro un po' anticipato di un paio di giorni, ma oggi proprio sui giornali leggevo di una proposta per ridurre lo stress di allungare il weekend a 3 giorni. È un economista a farla, quindi dove vedi si che firma un po' per questa legge? È un po' un economista dobbiamo alla quale cercarlo denari. Allora, grazie Nicoletta. Allora, a proposito di meccanismi, ha citato questo termine Nicoletta, il meccanismo del contratto a tutele crescenti. In attesa di sentire le domande che hanno i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando al numero verde 800 24 00 24, avvocato, io mi chiamo Giovanna, ho 30 anni, magari avevo un contratto a termine con un'azienda metalmeccanica. Se questa azienda oggi avesse la possibilità di assumermi, che tipo di vantaggio ha e io come lavoratore che cosa ottengo esattamente? Quindi andiamo proprio all'ABC del contratto a tutele crescenti. Beh, ottima domanda, perché consente proprio di evidenziare le novità. Allora, diciamo che l'azienda ha una spinta fortissima dalle nuove norme ad assumere a tempo indeterminato, cioè l'azienda non conviene usare altri contratti, perché assumendo a tempo indeterminato per 3 anni non paga i contributi previdenziali fino a un tetto massimo di 8.060 euro all'anno, quindi diciamo c'è un risparmio nel triennio di circa 25.000 euro. Esatto, 24-25.000 euro. Che per una piccola azienda non sono proprio bricioline. Esatto, ecco. E anche per una grande se moltiplica poi per centinaia di assunzioni, quindi c'è un risparmio fortissimo, è la prima grande operazione di riduzione del costo del lavoro attuata negli ultimi 10-15 anni, e quindi più che incentivo è quasi proprio una riduzione del costo del lavoro, perché è generalizzata, quindi questo è un incentivo fortissimo. Poi c'è un secondo incentivo, diciamo, che guarda sempre l'azienda ma tocca di più il lavoratore, che è quello sul licenziamento, cioè in caso di licenziamento ci sono norme che rendono più certa e diciamo meno contestabile la procedura e le regole da applicare, perché va rimosso un falso mito. Non è vero che il Jobs Act ha tolto l'articolo 18, l'articolo 18 l'ha tolto la legge Fornero nel 2012, solo che era scritta talmente male quella normativa, in maniera talmente complessa, che non ha funzionato. Il Jobs Act sostanzialmente ridice le stesse cose del 2012, ma in una lingua giuridica più comprensibile, quindi diventa esigibile. Quindi l'azienda sa che si assume nel 2015, ha lo sgravio per 3 anni, e poi a prescindere da quando assume, quindi anche se assume nel 2016, ha maggiore certezza in caso di lite con il lavoratore, in caso di lite. Magari questo aspetto lo spiegheremo meglio, visto che è al centro anche di alcuni quesiti di alcuni ascoltatori che sono pronti ad intervenire. Allora direi che possiamo intanto velocemente prenderci la nostra prima pausa, sentiamo cosa succede sulle strade italiane e poi ritorniamo sul Jobs Act, sul contratto a tutele crescenti, a tra pochissimo. Cuore e denari. Ma che razza di lavoro fai? Hai un contratto o non l'hai avuto mai? Che razza di lavoro fai? Effettivamente la pletora delle forme contrattuali varate in questi ultimi anni è stata veramente ampia, si cerca adesso un po' di riorganizzare questo mondo, quello dei contratti di lavoro. Quello prevalente nei prossimi mesi dovrebbe essere quello a tutele crescenti, secondo almeno quanto stabilisce il Jobs Act, che ha fatto il suo primo compleanno in questi giorni, glielo hanno assegnato per forza, quello dei primi 6 mesi di vita, e in molti naturalmente hanno voluto anche fare un po' un primo bilancio anche alla luce delle statistiche, come ci diceva l'avvocato Falasca poco fa, che vengono continuamente diffuse da una parte l'Istat, da una parte l'Inps, da una parte il Ministero del Lavoro, dati che poi si intrecciano e generano molta confusione. Noi abbiamo quelli che sono stati diffusi questa mattina dall'Istat, che dice che la disoccupazione giovanile a luglio è scesa al 40,5%, la disoccupazione generale è scesa al 12%. Prendiamo atto di questo miglioramento, e da qui abbiamo preso anche lo spunto per rifare il punto della situazione sul funzionamento del contratto a tutte le crescenti. 800 24 00 24, stanno già arrivando tantissime domande da parte vostra, le giriamo subito, direi, Nicoletta, l'avvocato Falasca, molto perché volentieri. Ci piace molto concretizzare la trasmissione con gli aspetti pratici che hanno bisogno di risolvere gli amici che ci seguono da casa. Dove andiamo per primo? Allora, vorrei andare a Roma da Angelo. Buongiorno Angelo, benvenuto. Ho scelto lei, Angelo. Potevo scegliere anche Luca da Forlì. Pensi, l'ho preferita. Angelo, vada. Buongiorno. Dunque, sicuramente ha ragione l'avvocato quando dice che è stato il primo atto veramente concreto rispetto ad un abbattimento del costo del lavoro, perché le aziende comunque sia eravamo piuttosto schiacciate da questo costo. La realtà è che comunque sia molte aziende si stanno indirizzando su questo, perché poi con l'eliminazione al 26 di giugno del famoso co-co-co, le due alternative sono soltanto un tempo determinato e il tempo indeterminato, che in questa fase diciamo che è sicuramente più interessante per quanto riguarda i costi. Adesso la domanda che io mi pongo è: che cosa succederà tra 3 anni? Perché se si è creato, cioè se i costi del lavoro sono stati calcolati, quindi il business. Angelo, allora stiamo perdendo la qualità della telefonata, però abbiamo, non è ottimale, ma il succo del la sua richiesta. Avvocato Falasca, peraltro Angelo ci fa anticipare in maniera dirompente quella che sarebbe stata la conclusione alla quale saremmo voluti arrivare quando avremmo dovuto fare il cambio di argomento, poi in realtà stamattina si cambia relativamente, no, con il tema con Nicoletta. Cosa succede fra 3 anni? Una volta che gli incentivi resi disponibili dal governo termineranno, c'è un grande dibattito in questi giorni proprio sulla necessità o meno, auspicata da più parti, di renderli strutturali questi incentivi, no? Ma a bocce ferme, ammettendo che non ci siano le risorse fra 3 anni per renderli tali, che cosa succederà alle aziende che hanno firmato un contratto di lavoro di questo tipo con un bel numero di lavoratori? Ma questa è una domanda che viene fatta spessissimo in questo periodo, no? E questo dimostra anche che siamo un po' uno strano paese, perché allora se non c'era l'incentivo andava bene a tutti, adesso siccome dura tra virgolette soltanto 3 anni tutti dicono tra 3 anni cosa succede. Io penso che succederà quello che succederà dipenderà dalle situazioni economiche. Noi intanto speriamo che il PIL abbia ripreso il volo, esatto, che tutte le aziende abbiano tante cose da fare, quindi da assumere senza farsi nessun problema sul tipo di contratto da applicare. La risposta è quella, cioè dipenderà dalla situazione di ogni azienda. Un'azienda che ha un lavoratore in casa per 3 anni, lo forma, lo addestra, gli fa conoscere anche i propri segreti aziendali, non è che lo butta al mare perché è finito lo sgravio. Quello che accadrà dipenderà dalla situazione, neanche tanto del PIL, ma dalla situazione della singola azienda. Quindi in questo lo trovo giusta la preoccupazione dell'ascoltatore, ma insomma a livello generale è usata anche in chiave polemica questo argomento, no? Come dire, vabbè, sono solo 3 anni. Da qualche parte bisognava pure iniziare. Intanto così si agevola l'ingresso delle persone in azienda, si stimola in maniera importante l'utilizzo di contratti dotati di una intrinseca stabilità. Tra l'altro, avvocato Falasca, non è che un datore di lavoro potrà dire, visto che sono terminati gli incentivi, questa è una giusta causa per poterti licenziare? No, assolutamente, assolutamente. Non è che siamo nell'ordine di questa fantascienza. Il vero problema è un altro, cioè cosa accadrà il 1 gennaio 2016? Cioè, mi spiego, l'incentivo, lo sconto, diciamo, sui contributi, purtroppo dura solo per chi assume quest'anno e poi si trascina per 3 anni. Ecco. Il problema sarà, come dicevate prima, renderlo strutturale, cioè la grande operazione sarebbe anche per chi assume nel 2016 dare 3 anni di sgravio, perché altrimenti c'è il problema per cui l'anno prossimo poi finisce già l'effetto positivo. Infatti, di questa, perché diciamocelo, a prescindere dagli incentivi fiscali e contributivi appunto di cui stiamo parlando, molte aziende, pur cogliendo l'importanza dell'opportunità che avevano a disposizione, hanno un po' tergiversato sulla scelta di assumere o meno a contratto indeterminato, a tempo indeterminato, lavoratori, proprio perché è una materia che è stata talmente tante volte disciplinata negli ultimi anni che nell'incertezza del panorama legislativo, avvocato Falasca, hanno preferito prendersi ancora del tempo, magari perdere gli incentivi ma prendere queste decisioni l'anno prossimo. No, certo, il nostro è un ordinamento che non dà fiducia a chi deve investire. Questo poi, come dire che diciamo non dobbiamo troppo centrare sul Jobs Act, ha fallito o non fallito, cioè l'ordinamento nel suo complesso deve creare un clima di fiducia. E ovviamente, come accade poi anche sul fisco e quant'altro, se le norme cambiano ogni 3 mesi, diciamo, nessuno si fida diciamo della tenuta di certe norme, quindi un po' di diffidenza c'è anche, certo, per questo motivo. Forse avevamo anche promesso a Luca di intervenire, che ma più certo meno... gli diamo il benvenuto e ritorna e ci permette di approfondire un po' questo tema. Luca, questo buongiorno. Tema del triennio, cosa succede fra 3 anni. Luca, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. No, penso che abbia già risposto il professore alle mie domande, che erano sì, una era quella legata a che cosa succedeva dopo la fine della defiscalizzazione in relazione anche a una flessibilità maggiore in uscita, e poi la seconda era proprio quella della strutturazione di questa defiscalizzazione, ovvero se questo defiscalizzazione solo per il 2015 poteva creare proprio un aumento dell'assunzione nel 2015 e poi al 2016 bloccare il tutto, sperando che poi magari con la ripartenza magari economica italiana non ci sia più bisogno di discutere di tutto questo. Luca, grazie. Lei peraltro ci fa questa domanda da quale punto di vista? Da quella del lavoratore che avrebbe la possibilità di firmare un contratto di questo tipo, del datore di lavoro? Sì, mi era stato proposto sì un contratto, diciamo, io lavoravo come libero professionista e era stato proposto un contratto di assunzione a tempo indeterminato. Come libero professionista sarebbe stato un po' superiore come introito, come libero determinato un po' inferiore, però penso che diciamo non so quanto possa essere migliore la formula oppure no, in relazione anche ai prossimi 3 anni, che certo, cosa può succedere. Grazie, ecco. Luca, peraltro abbiamo 30 secondi di tempo prima della... No, non abbiamo proprio 30 secondi di tempo, non abbiamo nessun tempo, prima abbiamo adesso il giornale radio, avvocato Falasca, risponderemo dopo a Luca. Per chi ha queste posizioni, per chi deve cercare di mettere sulla bilancia vantaggi e svantaggi di un'assunzione di questo tipo, che cosa deve prendere in considerazione? Ecco, non stressatevi, chiamate e trovate la soluzione, dai, forza. A dopo il giornale radio, tra poco. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Cuore e denari. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso. Ma la notte no. Sì, è anche uno degli svantaggi dello stress. Anche quello? Certo. Ecco. Comunque, adesso tutto si finisce, torna comunque. Tutto lì, il lavoro, il ritorno alla vita da pendolare, la rata del mutuo, tra poco ne parleremo. Guarda, ci abbiamo un calendario, un'agenda per settembre che te la raccomando. E poi anche l'amorosa, il moroso, le relazioni. Visto mai che ha cambiato idea, no? A settembre, quindi altro stress, aggiungiamone ancora. Che stress oppure potrebbe essere ansia? È una bella domanda, perché perché bisogna a distinguere? Ho l'ansia o sono stressate? Una volta che lo so, che faccio? Allora ve lo diciamo noi, 800 24 00 24, sono le 11.09. Avete ripreso a lavorare, diteci come state. Che cosa sentite? Vi sentite più stanchi? Avete più o meno un po' la paura di riprendere? Vi sembra tutto difficile? Avvertite già qualche dolorino? Dormite male? Noi siamo qua a vostra disposizione, non stressatevi, perché noi abbiamo le soluzioni, vi seguiamo passo passo. 800 24 00 24 soluzioni cucite su misura. E intanto Deborah, sì, per evitare che noi ci stressiamo, sì, insieme al suo esperto ci risponderà a tutti i nostri dubbi sul lavoro e su questo contratto a tutele crescenti, per cui stanno arrivando numerose domande. Visto che è giovanissimo, per chi ancora non ne avesse capito la dinamica, i benefici, c'è anche invece chi sta dicendo sì, guarda, sai che ti dico, anche se è un contratto a tempo indeterminato, come ha fatto prima l'ascoltatore di Forlì, io facevo il libero professionista, non riesco prima mica a capire se mi conviene ancora mantenere la libera professione oppure cogliere l'opportunità che questa azienda mi sta dando e farmi assumere. Che fare? Oggi non lavoro, allora sai, mi sa che prendo il volo. Olè. Oggi non lavoro, allora sai. Allora, oggi non lavoro, no, c'è tanta gente che invece farebbe salti mortali pur di avere un'occupazione. 800 24 00 24, continuate a raccontarci se vivete da vicino la ricerca del lavoro per un giovane oppure per un meno giovane, se si avvicina la scadenza di un contratto tra virgolette precario e se vi è stato promesso o quasi promesso che con gli incentivi delle tutele crescenti questo contratto potrebbe diventare a tempo indeterminato. Peraltro le aziende hanno settembre, ottobre, novembre, dicembre per decidere di assumere secondo le nuove modalità, poi da gennaio chissà se gli incentivi verranno mantenuti. Con noi questa mattina l'avvocato Giampiero Falasca. Vorrei farvi sentire tra poco, ve lo anticipo già, come stanno andando le cose anche per un'altra grande operazione che pure ha i suoi chiaroscuri, la Garanzia Giovani, il grande programma europeo che dà all'Italia 1,5 miliardi di euro se riesce a posizionare in qualche modo nel mercato del lavoro in IT tutti quei ragazzi che non hanno occupazione, non hanno nessun percorso professionale in corso, nessun programma di studi. A quanto pare le cose non stanno andando benissimo, un bilancio lo faremo tra poco, ma intanto, avvocato Falasca, per rispondere all'ascoltatore di Forlì di prima, libera professione o contratto a tempo indeterminato? Lui ha sul piatto adesso queste due opzioni. È chiaro che deve vedere un po' la sua vita come sta andando, è chiaramente una scelta molto personale. Valutandola proprio dal punto di vista giuslavoristico, lei che cosa farebbe? Ma allora intanto mi farei la domanda, cioè quello che faccio io è un lavoro subordinato o una libera professione? Perché in realtà la scelta non si dovrebbe neanche porre, cioè se l'attività si svolge in un certo modo deve per forza essere inquadrata come lavoro subordinato, se si svolge invece senza la cosiddetta eterorganizzazione, quindi se sono veramente svincolato dalla subordinazione, allora posso restare come libero professionista. Quindi io mi farei innanzitutto questa domanda: ma cosa fotografa meglio la mia attività? Perché tanto poi se usiamo un contratto in cui stiamo stretti, prima o poi non, diciamo, i nodi vengono al pettine. Detto questo, perché da questa valutazione poi discendono le altre valutazioni: se sono un vero libero professionista non devo accettare un contratto di lavoro subordinato, perché la mia attività si concilia male con vincoli di orario, vincoli di presenza, con un certo tipo di pagamento. Se invece io lavoro solo per un'azienda, ho un capo, la mia prestazione è organizzata da quell'azienda, la cosiddetta partita IVA è un falso probabilmente, ecco. Quindi meglio il lavoro subordinato. Esatto, è meglio stabilizzare questa situazione, formalizzarla. Sì, proprio ragionerei in questo modo, quindi perché se si ragiona sulle convenienze si parte dalla fine, e in questo il Jobs Act aiuta, perché per la prima volta consente di scegliere in maniera serena, cioè prima il ragionamento era viziato da un differenziale di costo talmente alto per cui non c'era la scelta. Cioè, nel dubbio ci si buttava sempre sulle partite IVA o su contratti di dubbia regolarità. Ora c'è uno spazio, un margine di scelta maggiore. Lo dicevo prima, il crollo delle Co.co.co. non è casuale e non dipende dal fatto che, come si dice, è stata abolita. Primo perché non è vero che è stata abolita. No, perché come diceva lei, i falsi contratti si cristallizzano, tra virgolette. Esatto. Senta, avvocato Falasca, l'ho promesso agli ascoltatori, siccome molti si sono iscritti a questo programma, Garanzia Giovani, molti ancora, nonostante sia in auge da tantissimi mesi, non sanno bene in che cosa consista, faccio un rapido riassunto della situazione in questa scheda preparata dal nostro Marco Lombardo. È arrivato a toccare quota 723.000 il contatore di Garanzia Giovani, che misura il numero di ragazzi tra i 15 e i 29 anni che si sono iscritti a questo programma, lanciato nella primavera 2014 nell'ambito del Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. I destinatari sono i cosiddetti NEET, coloro che non sono impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo. Il giovane si iscrive tramite un apposito portale, viene contattato per un colloquio, profilato, e entro 4 mesi dovrebbe ricevere una proposta concreta nell'ambito del lavoro o della formazione. Un contratto, l'apprendistato, un corso, il servizio civile, un percorso di autoimpresa. Sulla carta un'opportunità molto interessante, che si è scontrata però in questi anni con alcune criticità che in particolare le regioni, a cui spetta il compito di indirizzare i giovani ai diversi servizi per l'impiego o alle agenzie interinali, si sono trovate a gestire. c'è chi denuncia complicazioni burocratiche e ritardi nei pagamenti quando è prevista una retribuzione. Ma soprattutto si punta il dito sulle basse percentuali di persone contattate per un colloquio rispetto agli iscritti, che diventano ancor più basse se si prende in esame il numero di proposte. Dal Ministero però sottolineano il trend positivo emerso dall'ultimo monitoraggio. Rispetto alla platea degli oltre 700.000 iscritti, al 27 agosto 2015 i giovani presi in carico sono 426.779, con un incremento del 4,5% nelle ultime 4 settimane. Tra questi sono 152.854 quelli cui è stata proposta almeno una misura del programma, con un incremento nelle ultime 4 settimane del 7,2%. Anche il numero di registrazioni nel solo mese di agosto è cresciuto di oltre 24.000 unità. Mentre molti continuano a parlare di flop, c'è ancora chi spera, soprattutto i tanti giovani iscritti, che la rete dei servizi per l'impiego possa rafforzarsi e mettere in atto un effettivo rilancio del progetto. Insomma, luci ed ombre di Garanzia Giovani, che conosce molto bene il ministro del welfare Giuliano Poletti, che osserva molto attentamente come stanno andando le cose. Detto questo, stiamo concludendo la parte relativa ai contratti a tutele crescenti. Vorrei mettere nella nostra agenda quella che stiamo sottoponendo all'avvocato Farasca, l'ultima domanda che stanno facendo moltissimi ascoltatori. Non riusciamo a far intervenire Angelo da Milano e Roberto da Cremona, che invito a scriverci a cuoredenari@radio24.it. Roberto, un artigiano, dice: mi conviene avere di più, avrei bisogno di più collaboratori, ma mi conviene più avere un collaboratore o assumere un dipendente a tempo indeterminato? Roberto, noi gli auguriamo 10 assunzioni perché la sua attività vada naturalmente al meglio, ma il tema è, avvocato Falasca, per chi è assunto regolarmente adesso lavora, magari ha un contratto secondo le vecchie caratteristiche, tempo indeterminato completo. Adesso ha l'opportunità di cambiare lavoro, magari perché un'azienda offre uno stipendio più alto, prospettive di crescita diverse, ma il contratto nuovo è quello a tutele crescenti. Che cosa deve farsi come domanda questo lavoratore per capire se vale la pena fare questa scelta o meno? La mia risposta può sembrare un po' provocatoria, ma non lo è, o forse volutamente. Per prima cosa, non deve preoccuparsi dell'articolo 18, ma deve pensare alla sua carriera, deve pensare se il nuovo lavoro ha la sua crescita professionale, perché insomma dobbiamo iniziare anche un pochino noi a svecchiare la nostra mentalità, no? Cioè sono ragionamenti che nessuno all'estero fa o capirebbe, cioè si guarda all'adattabilità dei lavori alle nostre competenze, perché ormai non possiamo pensare che la nostra vita sarà in un solo posto. Quindi l'articolo 18 è come la coperta di Linus, scalda un po' il cuore, ma in realtà era una tutela che già non funzionava da anni. Però detto questo, se vogliamo andare più sugli aspetti più tecnici, diciamo, il lavoratore che cambia sa che cambiando passa dall'articolo 18 versione Fornero all'articolo 18, anzi alle tutele crescenti. Esatto. Dove la vera differenza è che prima, se il licenziamento era privo di giustificato motivo oggettivo, poteva avere un risarcimento tra le 12 e le 24 mensilità, oggi invece ha 2 mensilità per ogni anno di servizio. Più lavora, quindi, più l'indennizzo economico è più alto in relazione ai mesi di lavoro prestati effettivamente. Se invece il licenziamento è per motivi disciplinari, c'è una chiarificazione di come era scritta la norma, ma sostanzialmente non c'è un grande cambiamento. Purtroppo mediaticamente è venduto il Jobs Act come il provvedimento che ha cancellato l'articolo 18, infatti. Ripeto, non è vero, io mi preoccuperei degli sviluppi. Ma mi pare che poi questa polemica pure sia andata abbastanza scemando, avvocato Falasca. Anche per lei un autunno caldo, insomma, tante cose da fare, tante aziende alle quali prestare assistenza. Speriamo che non ci si stressi, l'avvocato Falasca, perché dobbiamo chiamarlo ancora. L'avvocato Falasca, che io vorrei trattenere un attimo con noi, perché mi ha dato uno straordinario assist, mi ha acceso un pensiero che vorrei condividere con il nostro prossimo ospite, che è qua in studio con noi, il professor Perna, che è psichiatra e professore dell'Università di Maastricht in neuroscienze. Il professore, l'avvocato Falasca ha detto: dobbiamo cambiare un po' mentalità nel momento della decisione, concentrarci un po' sulla carriera. Ecco, questa è una lettura molto alla cuore più che ai denari, proprio perché tante volte le ragioni del nostro stress sono determinate da un modo non corretto di osservare la situazione. E quindi quando l'avvocato Falasca diceva un cambio di passo, un modo nuovo di valutare la situazione, è quello che noi oggi cercheremo di suggerire, certo, e di imparare dai consigli del professor Perna. Vogliamo fare un commento? Intanto, professore, benvenuto e grazie. Vorrei che lei ci facesse un commento a quanto detto dall'avvocato Falasca, proprio sul tema del lavoro. Quando dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo essere pronti un po' a sganciarci dalle dinamiche che abbiamo sempre percorso. Beh, io faccio un esempio pratico. A me capita di andare in America spesso perché insegno lì, e se parlate con le persone in giro, per loro è normale avere un contratto che finisce. Ma perché? Perché hanno la serenità che troveranno un altro lavoro. Quindi è chiaro che cambiare mentalità vuol dire anche cambiare un attimino l'assetto del paese stesso, per cui io magari vado a trovare un posto di lavoro, non sono adatto a quel lavoro lì, oppure non mi trovo bene, ma so che una volta finito quel lavoro, se io cerco un lavoro lo trovo. Questo è molto importante, perché l'angoscia, l'ansia e lo stress delle persone nasce dal fatto che io ho paura di non trovare poi la possibilità di mantenermi, di andare avanti. Quindi la mentalità deve essere graduale e commisurata anche col cambiamento che avremo nella società, che è in atto e che spero porteremo a una maggiore sicurezza per tutti e una maggiore flessibilità. Però la paura c'è e purtroppo non possiamo toglierla. È un aspetto che genera stress. Certo, certamente. Ecco qua, avvocato Falasca, ecco, concludiamo. Lo vede che l'ho catturata, l'ho trasformata anche un po' in un ospite di cuore. Ecco, ci vuole sempre un po' di cuore, soprattutto. Avvocato, solo per, la saluto, mancano ancora dei decreti attuativi sul Jobs Act, in 5 secondi, cosa manca? L'appello, poi la saluto? Sì, mancano 4 decreti, politica attiva, ammortizzatori sociali, ispezioni sul lavoro e semplificazione. Abbiamo già messo tutto in calendario per le prossime puntate, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. A presto. Grazie. Allora, c'è chi si stressa perché torna al lavoro, chi è stressato perché il lavoro non ce l'ha, ecco, i nostri ascoltatori ce lo stanno facendo notare al 349-238-6666, io è preoccupato perché i figli non riescono a trovarlo, i contratti stanno scadendo, c'è il timore che non vengano rinnovati, intanto il tempo passa, professor Perna, e lo stress aumenta, sarà fisiologico, non a caso si parla di sindrome da rientro, ma credo che lo stress sia diventato un po' il nostro compagno di vita, no? Alcuni se lo sono portati dietro anche in vacanza. Comunque, oggi lavoriamo sul qui e ora e occupiamoci di come ci sentiamo oggi. Più attualità di così, professor Perna. Ecco, sono le 11:22. Che cosa vi sentite? Come va il respiro? Che cosa vi frulla in testa? Avete, no, la sensazione di tornare ripetutamente sullo stesso pensiero e di vedere un po', non dico tutto nero, ma un po' grigio? 800 24 00 24. Parleremo anche delle ricadute che questa condizione di stress ha, attenzione, perché avvelena la vita, per cui è meglio saperlo gestire, soprattutto se è quello stress negativo, incide sulla fertilità, oltre che, come sottolineavano alcuni articoli nei giorni scorsi, manda a monte la dieta, ma questo è il meno. Professor Perna, iniziamo un po' a inquadrare questa, è il tormentone di questi giorni, ogni anno allo stesso modo, della sindrome da rientro, sindrome perché è proprio fatta da una serie di segnali che interessano il corpo e la mente. Allora, stiamo attenti, perché come se dovessimo parlare del cuore che batte, possiamo parlare tutti i giorni perché è una cosa normale. Allora, la risposta da stress è una parte integrante del funzionamento normale della persona, per quello se ne parla sempre e per quello lo stress esiste ed è fondamentale. Lo stress è qualcosa di utile quando è breve, quando è motivato e commisurato a che cosa? Alla situazione che ci troviamo ad affrontare. In questo caso è normale. Quando diventa prolungato, perché magari circostanze esterne, tipo non ho lavoro e per 3 anni non ce l'ho e dei bambini piccoli, allora un altro discorso. Certo. Piuttosto che se vivo situazioni terrificanti, allo stress è molto alto, allora entriamo in una situazione in cui lo stress risulta essere dannoso. Però è una funzione normale, come il cuore. Il fatto che il cuore batte è una cosa normale, tutti l'accettiamo. Il fatto è che cambia anche ritmo, è normale. Certo, se ci sono extrasistoli pesanti o batte troppo non va bene. Così è lo stress, quindi cerchiamo di chiarire che è una funzione normale. Insomma, un po' di stress aiuta a ripartire, sì, soprattutto, ma se superi i livelli di guardia sono dolori. Professore, anche fisici, perché quanta gente ho sentito in questi giorni lamentarsi di mal di pancia e di improvvisi mal di testa. E qua, professore, la invito a nozze, perché tante volte noi abbiamo sottolineato la stretta relazione tra pancia e cervello. Meglio sarebbe dire tra i nostri due cervelli, che hanno tante cose in comune, cellule, gusti e anche nemici. Lo stress, ad esempio, picchia nella pancia, nel secondo cervello, e picchia anche su nel cervello, quello del piano alto. Per fortuna il nostro cervello basso ci difende molto bene. Dovete sapere che noi abbiamo una quantità di microbi positivi che ci aiutano veramente grosso. Si dice che un essere umano abbia 1,3 kg di microbi addosso. Quindi parliamo di miliardi. Allora, questa popolazione, parliamo dei fermenti lattici, parliamo dei probiotici, sono quelli che poi regolano il funzionamento dell'organismo e sono dei potenti antistress. Tanto che la ricerca sta veramente mostrando cose interessanti. Addirittura è uscito fuori un articolo recente che parla di psicobiotici. Vuol dire esattamente la possibilità che questi farmaci, queste sostanze, queste normali cellule, siano potenzialmente di aiuto alla salute mentale. Devo dire che io personalmente tutte le mattine mi prendo un fermento lattico, perché sono convinto che dagli studi che ho visto facciano bene. Poi che sia A, B, C non lo sappiamo, questa è la verità. Quanto allora siano... prima regola, noi vi abbiamo detto, oggi vi diamo consigli concreti. Allora, prima regola, noi, per non sapere come si dice, professor Perna, né leggere né scrivere, noi da domani mattina ci prendiamo nostro, per tenere a bada lo stress, un fermento quindi. Me ne do un'altra di regola importante. Dai. Allora, lavarsi troppo fa male perché distrugge i nostri batteri buoni e fa spazio a quelli cattivi. Cosa intende per troppo? Tre docce al giorno oppure una tutti i giorni? Uno parte con l'idea che deve disinfettare tutto a tutte le maniere, come oggi c'è un po' una mania. Bisogna stare molto attenti, perché questo rischia di non permettere al nostro corpo di regolarsi bene con gli ambienti. Facciamo un esempio. Pensiamo che questi batteri, questi probiotici, questi fermenti lattici siano come dei sparring partner durante il pugilato, ci allenano il corpo a reagire. Se noi togliamo questi che sono degli allenatori e ci mettiamo quelli cattivi, ci mettiamo Mike Tyson, quindi batteri di un'altra natura, capite che il sistema immunitario inizia a picchiare molto più duro, e questo immette sostanze nel corpo che vanno sul cervello e possono addirittura introdurre una depressione o altre patologie più gravi. Quindi cerchiamo di essere equilibrati nel corretto uso. Oggi noi sappiamo che gli antibiotici sono fondamentali, ma non bisogna abusarne. Seconda regola. Andiamo intanto a Veronica, che ci chiama da Salerno, sì, perché la domandona di oggi, professor Perna, sarà: cerchiamo di capire la differenza tra stress e ansia. Diciamo, ho l'ansia, torno al lavoro l'ansia, sono stressato, ricomincio con la vita di tutti i giorni. A volte noi usiamo parole come sinonimi, ma in modo improprio. Allora oggi cercheremo di capire qualcosa di più. Veronica ci aiuta da Salerno con la sua domanda. Buongiorno Veronica. Sì, buongiorno. L'ansia e il stress ci accompagnano ogni giorno, e condivido il discorso del dottore. Ho due figli piccoli, uno di 3 anni e mezzo e uno di 5, quindi sono abituata. Non riprendo a lavorare dopo aver fatto le ferie, perché le ferie non le ho fatte, visto che sono stata sempre impegnata a lavorare con una mia partita IVA. E solo oggi mi ritengo fortunata, anche se un po' ansiosa, perché sono in viaggio verso Todi per fare una presa di servizio dopo 15 anni di precariato come insegnante. Sì, brava Veronica. Quindi siamo con lei e le facciamo tutti i migliori auguri. Qualcosa di positivo arriva. Sono un po' fuori dai 29 anni, quello che è il programma vostro di la garanzia giovani. garanzia giovani, ecco, ne ho 37, quindi per quello che diciamo è funzionato che Veronica stia tranquilla che ha fatto la scelta diversa, è andata molto meglio lei, perché qua c'è chi dice insomma garanzia giovani, miei figli iscritti da marzo 2014, neanche un sms, solo una inutile newsletter incommentabile. Sai che stress in questa famiglia in attesa che qualcuno chiami Nicoletta. Sì, perché noi grazie, ci stressiamo oltre che per le nostre, no, preoccupazioni, per quelle delle persone che sono a noi vicine. Allora 800 24 00 24, professore, in questi giorni, come anticipato, la sindrome da rientro è sulla bocca di tutti, perché chi torna fa fatica, lo stress picchia duro, sceglie in modo diverso i suoi bersagli, c'è chi lo patisce più a livello di testa, pensieri, umore nero, timori, senso di inadeguatezza, paura, chi invece più a livello fisico, e poi c'è chi fa bingo e si becca tutte e due, no? Sia l'umore nero che l'irritabilità, certo, che la difficoltà a digerire, e ci mettiamo pure il dolore al collo. Insomma, che differenze ci sono? Perché questo modo, no? Così lo stress può scegliere il corpo in alcuni e in altri la mente? Vede, anche lì ricordiamoci, mi piace parlare un po' di normalità qualche volta. In fin dei conti non tutti siamo molti uguali, non tutti abbiamo lo stesso peso, non tutti abbiamo lo stesso metabolismo, così non tutti abbiamo lo stesso sistema dello stress. La sindrome da rientro di cui tutti parlano non è altro che il normale adattamento al fatto di passare dall'ambiente vacanziero a quello normale. Quindi vuol dire, parlare di sindrome di stress vuol dire esasperare quello che è un concetto normale. Se noi cambiamo ambiente, cambiamo situazione, siamo sotto pressione perché dobbiamo riadattarci, quindi è normale che abbiamo un corpo e una mente che si rimettono in moto. Basta aspettare un paio di settimane. Talvolta nella vita bisogna avere pazienza, non prendere, fare, disfare, ecco, un paio di settimane. Quindi in effetti tutto questo, no, tormentone sulla sindrome da rientro, in realtà forse noi abbiamo il ritorno slatentizza magari dei problemi che avevamo accantonato, che non volevamo vedere, che abbiamo rimandato, no? Perché ci rifà vivere nel qui e ora, che è la cosa più difficile che noi dobbiamo fare. Noi pensiamo sempre al futuro perché non siamo capaci di organizzare il presente, e pensiamo che magari, no, domani riusciremo a farlo, per cui ci rassicura, no? È un modo per sfuggire le incombenze del quotidiano. Se bisogna ricordarsi che non è che se non abbiamo risolto i problemi prima delle vacanze, dopo scompaiono, no? Quindi è molto importante ricordarsi che la vacanza non deve essere una fuga, ma deve essere un momento di pausa. Il momento di pausa implica il fatto che uno, se va al mare, è al mare. Con la testa non può essere ai problemi che ha lasciato a casa o al precariato del futuro. In quell'istante, se c'è un bel tramonto, bisogna goderselo. Allora, il concetto di essere nel presente è l'elemento che permette alla vacanza di ritemprare la persona. Però, se io ho dei problemi prima, quando tornerò a casa ce li avrò. Certo. Ma in più, in qualche maniera, questa situazione ovattata della vacanza farà sì che io piomberò più pesantemente nel problema. Quindi prepariamo le nostre ferie prima di andare via, cerchiamo di regolare la situazione in modo che noi sappiamo che, il più possibile ovviamente, perché non sempre è fattibile, i grossi problemi, almeno abbiamo un progetto per il futuro, in modo che andiamo, facciamo la pausa, torniamo dalle vacanze. Lei lo sa che a proposito di pausa, professor Perna, le faccio una domandona a lei, che cosa c'è? Adesso c'è una pausa, ma io prima della pausa, prima di lasciare la parola a Deborah, voglio invitarvi a raccontarci dove picchia lo stress. Noi vogliamo prendere dallo stress solo la parte buona, e poi il professor Perna ci aiuterà a capire che cosa vuol dire essere ansioso e che cosa vuol dire essere stressato. Voi a quale delle due categorie vi sentite di appartenere e perché? Subito dopo i mercati. Cuore e denari. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori. Ma diciamo la verità, non è che diciamola. Tutti adesso diciamo sono stressato, l'ansia, non è che la facciamo un po' più grande di quella che è, professor Perna? Non è che si stava meglio in vacanza invece che al lavoro, la conclusione banale è questa. Guarda che ci sono dei dati molto interessanti, che le vacanze ad esempio sono molto stressanti per le donne. Hanno fatto tutta un'indagine, perché le donne in vacanza non ci vanno mai, perché se si portano tutta la famiglia al mare, lavi, stiri, cucini, certo, il menage è sempre quello. Quindi anche le vacanze sono fonte di stress. Insomma, noi dobbiamo un po' reimparare a programmarci. Professor Perna, intanto lei mi spiega se io sono stressato o sono ansiosa. Secondo me tutte e due. Allora, sono due concetti, sono molti simili, ma non sono uguali. Lo stress è la risposta del nostro corpo, della nostra mente di fronte ai cambiamenti, anche quelli positivi. Se io mi innamoro, sono stressato. Se io cambio casa, vado in una casa più grande, sono stressato. Se io ho una promozione, sono stressato. Questo perché ogni cambiamento ci impone di riorganizzarci verso il nuovo. Questo è lo stress. L'ansia è un concetto un po' diverso, perché altro più che altro l'anticipazione dei pericoli. E proprio perché tutti i cambiamenti vengono vissuti male da chi è ansioso, l'ansioso vuole avere tutto sotto controllo disperatamente. Quindi l'ansia è un'anticipazione, una proiezione al futuro. Mi faccia ad esempio, noi oggi abbiamo parlato di lavoro, di garanzia giovani, abbiamo parlato del contratto a tutele crescenti, di questo lavoro che, ecco, mi faccia i pensieri che possono passare adesso nella testa di una persona ansiosa. L'ansioso sono i genitori che sono preoccupati dei figli che non troveranno lavoro, ovviamente questa è una proiezione al futuro, piuttosto che una persona che ha un contratto oggi e che non sa se verrà rinnovato domani. Quindi noi siamo sempre proiettati al futuro, no? Esatto. Quindi il futuro è o quando i figli escono, oddio che cosa capiterà. Esatto. In questo caso la persona ansiosa è vuole avere tutto guarda, sotto controllo. È bastata questa, se la ridono in regia, certo, tutti, allora, Andrea, Isotta, certo, Marco, perché guarda, tutti no? Dalla parte del figlio, ecco, stando tutti, quando vanno in vacanza, che partono con lo zaino, ti chiamo. Avranno più avanti figli anche loro, poi ne riparleremo e noi rideremo, va bene. No, quindi l'ansioso è quello che insomma ha dei pensieri di timore negativi su quello che gli dovrà accadere domani. Sì, vive proiettato nel futuro, vedendo un futuro che è pericoloso. È questo, ho capito? La cosa più negativa, diciamo così, è il fatto che se io sono molto ansioso, siccome voglio avere tutto sotto controllo e non mi piacciono i cambiamenti, rischio di perdere le opportunità. Non sono uno che esplora il mondo. Ci sono anche delle persone che hanno sia la voglia di esplorare sia l'ansia, quindi immaginatevi come uno che vorreste schiacciare insieme l'acceleratore e il freno, no? Quindi l'ansia, guai non averla, io non posso non pensare al futuro, però l'eccesso ci blocca e ci frena. Allora, anche per questo i fermenti vanno? No. I fermenti hanno quel regolano, sapete che cosa? Il sistema soprattutto immunitario di una persona. Il sistema immunitario colpisce pesantemente il cervello. Voi dovete sapere che dal cervello agli organi, che sono la pelle, che sono l'intestino, che sono il cuore, no? Passa che cosa? Il sistema immunitario e il sistema ormonale. Quindi voi immaginatevi tutto quello che cambia, cortisolo piuttosto che gli ormoni tiroidei, le citochine che sono sostanze legate al sistema immunitario, ecco, tutto quello influenza la mente e viceversa. Quindi ormai parlare di malattie della mente o malattie del corpo è molto sbagliato. C'è una malattia che colpisce una persona e che ha componenti sia sulla mente che sul corpo, perché sono intimamente legate. Allora, un po' come le fasce muscolari, no? Brava. In tutta questa relazione ti sono Madonna. Piaciuta adesso, questa non te l'aspettavi. Allora, 800 24 00 24. Tra l'altro, a proposito di genitori, adesso poi diamo subito la parola ai nostri ascoltatori. Ha letto quello studio americano, è proprio di questi giorni, così sottolineiamo che leggiamo i giornali e siamo sull'attualità. Quello studio americano che sostiene che l'ansia per la matematica sia contagiosa, venga trasmessa dai genitori ai figli, sono studi che escono sempre a commento delle notizie di attualità, ma volevo chiederle, questo mi dà lo spunto al di là delle battute per chiederle, c'è una predisposizione familiare all'ansia e nel caso si gioca a livello più biochimico oppure l'ambiente, l'educazione, gli stimoli che riceviamo a farla crescere? Quindi separare il biochimico dall'ambiente non è la cosa migliore oggi, perché quello che si sa è che esiste una genetica e la genetica non ha dubbio. Noi ereditiamo un DNA e il DNA è immutabile, ma ci sono delle proteine che stanno attorno al DNA che in realtà possono cambiare per l'ambiente. Quindi paradossalmente il modo di essere i nostri genitori, il modo di comportarsi, l'ambiente attorno può essere trasmesso tramite queste sostanze vicino alla genetica, si chiama l'epigenetica, no? Quindi oggi la genetica viene vista in maniera più ampia, proprio la trasmissione anche dei comportamenti, per cui noi genitori, ma anche noi società, abbiamo una responsabilità enorme esattamente nel poter trasmettere ai posteri tutta una serie di comportamenti. comportamenti. Questo ci deve responsabilizzare. Certo. Però la genetica esiste. Allora, vogliamo fare un piccolo intermezzo sul Medico Risponde? 800 24 00 24, apriamo, facciamo una carrellata di telefonate, domanda chiama domanda, e soprattutto il professor Perna, partendo proprio dalle vostre richieste, cercherà di dare consigli a voi, ma consigli anche che possono essere naturalmente utili alle persone che si ritrovano nella vostra stessa condizione. Dove andiamo? Allora, bella, direi mia, che possiamo cominciare con Marco dalla provincia di Sondrio, che forse fa anche la domanda un pochino più complessa di tutte le altre, però no, beh, diciamo, si stabiliscono un po' relazioni diverse. Ci piace Marco, che aspettava da un po'. Marco, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno Marco. Allora, qua, io vorrei parlare della psoriasi. Capire, mi hanno sempre detto che era la psoriasi legata allo stress e lo stress legato alla psoriasi. Volevo, diciamo, avere da una sì, parte le avranno conferma. Detto che lo stress è un fattore che può, è uno dei fattori, perché la psoriasi è una malattia, professor Perna, lo ricordiamo, della pelle, è una malattia che ha delle pusse nel corso dell'anno. Sicuramente tutte le malattie della pelle vengono in qualche modo aggravate dalle condizioni di stress, a volte addirittura slatentizzate, il che non vuol dire che lo stress sia l'unica causa, ma è sicuramente un po' una miccia, e questa ha una spiegazione, lei ce l'aveva già fornita, no? Perché pelle e psiche e cervello sono molto vicini, come lei ha anticipato. Sì, sono molto vicini, ma soprattutto lo stress agisce modulando il sistema immunitario. Il sistema immunitario influenza la pelle, influenza le infezioni, esempio, un altro esempio è l'herpes, per esempio, no? Labiale, eccetera. Ed è chiaro che in questo bilanciamento lo stress quello che fa è ridurre la potenza del sistema immunitario, no? Quindi in questo caso qui è più facile che tante piccole malattie e disfunzioni anche della pelle vengano fuori. In questo caso lo stress non è causa, perché causa vuol dire che lo stress induce direttamente questa cosa qui, ma è un fattore che modula la situazione. È ovvio che al di là di pomate e pomatine, pastiglie e pastigliette, uno stile di vita abbastanza regolare e stabile, evitando i grossi stress, può aiutare chi soffre di questa condizione. Però il concetto è che questa relazione esiste, quindi la risposta è sì, assolutamente è vero. Andiamo a Latina, c'è Christian. Buongiorno, benvenuto. Christian. Buongiorno. Buongiorno Christian, lei come sta? Tutto, io diciamo abbastanza bene. Bene, dai, mi piace questo. Allora? Del lavoro non mi posso lamentare, perché da 14 anni che lavoro, sono 32 anni, sempre a tempo indeterminato, quindi di quello. Deborah, è in una botte de ferro. Mamma mia, Christian. Sì. Grazie. È solo che c'ho, diciamo che sono un tipo un pochetto ansioso. E volevo sapere come si riesce a classificare un'extrasistole pericolosa da una non pericolosa, anche perché io ogni tanto mi vengono, però ho fatto visite, visitine, tutti i controlli di questo mondo. Mi è piaciuto, visite e visitine, e ha fatto bene, e ha fatto bene Christian, perché insomma non si scherza, prima non è che possiamo dare sempre e solo colpa allo stress. È vero che lo stress, e poi ne parleremo con il professor Perna, soprattutto quando parleremo di attacchi di panico, vogliamo anticiparlo, perché è proprio un evento che coinvolge corpo e mente, che è proprio è un evento molto fisico, le persone pensano di avere un infarto, ma è bene, prima di dare la colpa allo stress, fare degli esami, naturalmente quando è il nostro medico curante a suggerirceli, non il fai da te, ma il nostro Christian voleva da lei, come psichiatra e medico soprattutto ed esperto in neuroscienze, capire se ci sono dei dettagli che possono aiutarci a fare un distinguo. Guarda, la prima cosa è che tutti noi abbiamo alcune centinaia di extrasistoli, cioè durante la nostra giornata. L'extrasistole non è una cosa straordinaria, ma una cosa normale. Ci sono diversi tipi di extrasistole, quelle sovraventricolari non sono pericolose, quelle invece ventricolari sì. Quando uno ne ha troppe, le sente troppo, primo il cardiologo, con un elettrocardiogramma ed eventualmente un holter. Questa è una sorta di prima valutazione che va sempre fatta. Una volta che questo è nulla, e mi pare da Christian di sentire che ha fatto visite e visitine, quindi suppongo che abbia visto diverse persone, a quel punto lì, se non c'è nulla di patologico, vuol dire che davvero sono risposte legate molto alla parte di stress o di ansia. In questo caso, quando il cuore rotola, e abbiamo visto già che non è nulla, ma può essere utile fare un po' un esercizio magari di respirazione. Sì. attenzione, cioè lo apprende qualche tecnica, è un portateco perché uno respiriamo sempre, è valido come suggerimento. Ma sicuramente professore. Sì, la respirazione calma anche il cuore, no? Quindi la capacità di rallentare il respiro in qualche maniera, di fare un po' di meditazione per intenderci, che in maniera semplice, aiuta in qualche maniera a calmare il cuore. È vero che però se queste sono frequenti, sono accompagnate da altri sintomi, allora potrebbero essere dei segnali di una vulnerabilità agli attacchi di panico. Di cui parleremo tra poco, attacchi di panico, il nome la dice lunga. Voglio poi parlarvi di una tecnica che si chiama Anapana o Anapama, che mi hanno, lei la conosce? No, assolutamente. Sì, bisogna concentrarsi, me l'ha spiegato una mia amica che ha fatto un corso di meditazione in Inghilterra, bisogna concentrarci sul respirando, sul respiro che avvertiamo, io dico nella zona baffetto, che è quella tra il naso e il labbro superiore. Provate, se non lo sentite, provate a mettere un dito sul labbro superiore. Eccoci qua, tutti in posizione, vedi rigorosamente. C'è un respiro, lì vedi che ti batte il respiro. Noi dovremmo concentrarci respirando e sentire. Tranquillizza. E tranquillizza. Provate, intanto noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. A tra poco. Cuore e denari. Dai, avete provato a fare questa respirazione? Siete un po' meno stressati. Ribadiscici adesso il nome. Allora, il nome preciso non lo so. Si chiama, è probabile che si chiami Anapana o Anapama. A me è piaciuto, io la chiamo la respirazione del baffetto. Del baffetto. Fatevela anche voi. Io ho provato e funziona. È bello perché devi catturare questo respiro e poi ti rilassi, delle belle respirazioni diaframmatiche, proviamo a respirare con la pancia. Quando vediamo che lo stress, quello negativo, professor Perna, sale, noi... dai, proviamo. La meditazione a 360 gradi è anche un tema molto gettonato fra i nostri messaggi alle 349-238-6666. Effettivamente è una cura che hanno provato in molti con successo, come ci suggerisce Manu, peraltro, e altri ascoltatori. Segnalo anche che affrontano il tema delle aspettative. Ridimensionarle un po' aiuta anche a ridurre i fattori di stress. Non so, dottore, se lei è d'accordo. Anche perché io credo che ognuno di noi abbia l'esperienza che ha fatto tante previsioni nella vita e quante volte si sono avvenute. Quindi talvolta forse prevedere troppo vuol dire perdere tempo anticipando un futuro che non è così prevedibile. Bravo, perché la vita un po' fa il suo corso. Esatto. La non seconda quello che vogliamo cosa noi. È che tutto sommato, se pensiamo noi stessi, ne abbiamo passate tante, ma siamo ancora qui, più o meno sani, più o meno contenti. Quindi vuol dire che il futuro non riserva sempre disperazione e disgrazia, ma riserva tutta una serie di problemini. Allora, preoccuparsi prima vuol dire consumare il presente nell'attesa di un futuro incerto. Io credo che sia una cosa inutile. Allora, abbiamo non capisco. No, senza naturalmente sorridere dei nostri ascoltatori, avevi lanciato il tema degli attacchi di panico, sì, no? Sì, infatti abbiamo un ascoltatore, esatto, che ci chiama da Padova. E Salvatore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno professor Perna. Buongiorno. Senta, sì, il mio problema sono gli attacchi di panico che purtroppo ormai si protraggono da circa una quindicina d'anni. Ahimè non è che me ne sia disinteressato, però ho provato alcune cose tipo le famose psicoterapie, brevi, non brevi, quello che è, però purtroppo senza nessun successo. Prendo purtroppo uno psicofarmaco che il professore conosce benissimo, che è il principio attivo l'alprazolam da 1 mg, cosa che mi copre una mezza mattina, ma quanto tra l'altro i miei attacchi di panico sono anche legati a quella che è l'agorafobia. Per cui gli spazi aperti, tenendo presente che io faccio un lavoro tra l'altro in auto, mi muovo, per cui per me è un enorme problema. Lo credo. Parecchi viaggi li faccio in treno piuttosto che in altre cose, perché non posso andare in macchina, perché non posso più fare le famose autostrade e tutto, che invece quando ero più giovincello facevo poteva tranquillamente fare. La mia domanda era questa, capire, perché ormai sono un po' arrivato all'ultima spiaggia, alla soglia dei miei 49, tra qualche mese 50, se posso fare qualcosa, se si può fare qualcosa, ma soprattutto questi attacchi si possono risolvere o no? Allora, mi scusi, professor Perna, dia subito la risposta, che la sappiamo anche noi, perché l'abbiamo parlato tante volte degli attacchi di panico, e sembra così difficile ancora comprendere come sia possibile avere ancora delle sofferenze così a lungo nel tempo, 15 anni di attacchi di panico, quando l'attacco di panico si può, no, risolvere. Vogliamo descriverlo però rapidamente e dire di che cosa si tratta? Ma l'attacco di panico nasce dalla comparsa improvvisa in attesa di una esplosione di malessere fisico, quindi pensate batticuore, mancanza di respiro, sbandamenti, tremori, sudorazione, il tutto che colpisce la persona in qualche maniera all'inizio in maniera inattesa, esplode rapidamente e può durare un tempo variabile, quindi una specie di bomba attacco, che colpisce, attacco, la dice, ed è molto fisico. Malissimo. Col tempo si ripetono e man mano la gente sviluppa la paura di star male, la cosiddetta ansia anticipatoria, quindi vive nell'attesa dell'attacco e inizia a difendersi evitando tutte le situazioni e luoghi in cui potrei star male e potrebbe trovare aiuto. Infatti, quindi proprio Salvatore come una gabbia, deve evitare, no? Le autostrade, esatto. L'evitamento, sì. Ed è proprio un passaggio tipico. Di questi disturbi. La cosa che mi fa rabbia, io vedo tanti pazienti, le storie così le sento spesse, in realtà è un disturbo assolutamente curabile, bisogna curarlo correttamente. Allora, il perché vengono date solo delle benzodiazepine, esempio l'alprazolam, per curare, se fosse solo quello, che è un errore, è sbagliato, non è la cura giusta, o il perché vengono offerte psicoterapie che non hanno un fondamento scientifico, io non ho ancora capito. Esistono studi chiari. Non ci sono delle linee guida, però. Certo, ci sono linee guida. Per l'attacco di panico, che è un disturbo molto, molto diffuso, noi abbiamo dedicato delle intere puntate, abbiamo ricevuto tantissime richieste d'aiuto, professor Perna, e tante persone si vergognano. Vergognano addirittura di andare dallo specialista a raccontare quello che capita perché si ha paura di diventare matti. Allora io dico, ma queste linee guida, non c'è un'uniformità di trattamento? No, non c'è. Bisogna avere la fortuna di capitare con lo specialista buono. È drammatico questo. Purtroppo sì, purtroppo il problema è educativo. Il problema vero è che ci vuole una formazione degli psichiatri e psicoterapeuti che sia una formazione basata su evidenza scientifica, cosa che oggi in Italia non c'è un granché. Allora questo è molto importante, perché poi chi ne paga le conseguenze sono persone. Io immagino, se Salvatore per qualche motivo trovasse davvero la cura, mettiamo che stia bene in 6 mesi, poi quei 15 anni chi è che glieli dà indietro? Perché stiamo parlando di 15 anni di vita, limitazione e perdita di opportunità di una persona che va avanti lo stesso, però ha perso tante occasioni. Allora, io credo che bisogna fare una riflessione molto attenta sul fatto che esiste una scienza, esistono cose dimostrate e cose non dimostrate. Ricordate Totò, no? Se le cose dimostrate le mettiamo da parte, quelle supposte dove le mettiamo? Ecco, purtroppo in Italia non le mettiamo nel posto giusto, ma vengono somministrate. Allora, la mia raccomandazione è quella di andare da persone valutando che abbiano un curriculum adeguato, che lavorino anche in ospedali significativi, no? E chiedere perché delle terapie. Purtroppo chiaramente oggi io non parlerò di terapie direttamente, perché è scorretto dire singolarmente le cose. Penso però che debba conoscere anche un po', bravissimo, meglio questa persona. Esattamente, quindi bisogna anche fare delle diagnosi, però il concetto è molto forte. Ecco, il messaggio è forte: dall'attacco di panico si può guarire, sì, in tempi relativamente brevi, c'è una terapia farmacologica affiancata da una terapia cognitivo-comportamentale, le due sono, interagiscono, si accompagnano come un binario, per cui non è che uno fa meno dell'altro, poi naturalmente i farmaci per fortuna si abbandonano, noi abbiamo sempre questa paura dei farmaci. E vede, è vero che abbiamo paura dei farmaci, ma ricordiamoci che di alcuni farmaci antipanico che esistono sulla serotonina non esistono prove scientifiche che siano tossiche a lungo termine, questo bisogna chiarirlo. Perché un conto è affermare che bisogna buttarli via subito, ma se io ho una vita imprigionata dal panico e l'unica maniera per star meglio è prendere una pastiglietta la mattina perché mi fa essere libero, la scelta è vivere tuttavia in gabbia o prendere una pastiglietta che non è tossica a lungo termine e vivere liberi. Questo io credo che gli ascoltatori debbano pensarci e debbano saperlo. Per qualunque vostra richiesta o domanda, sapete che Cuore Denari non chiude mai, scriveteci a Cuore Denari, inoltreremo le vostre domande ai nostri esperti per avere da loro una risposta. Professor Perna, grazie. Grazie molto per essere stato con noi. Grazie. Noi ritorniamo naturalmente, sì, domani alle 10.30, perché avesse perso il treno, di calendarizzare appunto attentamente questo appuntamento, lo faccia oggi. Abbiamo cambiato orario, ma siamo sempre qua con i vostri argomenti preferiti. Cuore Denari, Nicoletta, a domani. Saluti. We'll be right back.